del rock. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, eccoci qua, buonasera a tutti. 22:06, quasi in perfetto orario, quasi. Quasi siamo svizzeri, non proprio, ma siamo quasi in perfetto orario. Quasi. Quasi. Buonasera ai Calevala, vengo direttamente dall'Emilia. Come state? Avete fatto un buon viaggio? Sì. Un viaggio meraviglioso. Avete fatto un viaggio meraviglioso. Ho fatto slalom tra i camion fino a qui. Da Parma venite, vero? Da Parma. Due orette ci sono. Abbiamo passato il passaggio a livello. Avete passato il Reno, passaggio a livello. Tra l'altro tutti criticano il mio navigatore, invece ci ha portati qua. Perfetto. No, bisogna dire, cari ascoltatori, è arrivato perfettamente, ha suonato il campanello alla perfezione. Il navigatore ti ha portato proprio qua, vero? Sì, esatto. Perché noi utilizziamo un navigatore di epoca medievale. Per quello è tema... fa parte. Tema. Allora, Calevala, una band che epoca medievale avevi parlato, Daniele, mi pare. Sì. Di epoca medievale, perché non possiamo dire che c'è un'ambientazione medievale, oppure il Medioevo gira e rigira intorno alla vostra band, o no? Cosa dici, Simone, visto che sei qua vicino? Ecco, avevi detto Daniele, invece devo rispondere io. Ah, ho sbagliato, allora. Presentatevi okay. Un momento, dai, presentatevi. Allora, io sono Simone, la voce della band. Molto bene. Io sono Daniele, so suonare solo la chitarra, quindi suono la chitarra nella band. E io momentaneamente. Mi chiamo Dario, sono il flauto, che è lo strumento bistrattato. No, è un bellissimo strumento. Ora parliamo del... Sì, perché il Medioevo gira e rigira, visto che sei qua davanti a me. Giusto. La voce, Medioevo, vocalista della band. Allora, il Medioevo, tra tutte le immagini che vanno a condire la nostra musica, e sono tantissime, sicuramente è una delle atmosfere che ritorna, che ritornano costantemente. Tant'è vero che, se vogliamo menzionare le nostre cover che c'erano nel precedente, cioè, che era Ballo in Fa diesis minore di Branduardi, si rifaceva una cosa, ballata medievale. Esattamente. E poi questa volta, Se si fosse fuoco, quindi la versione di De André, però... Sonetto di Cecco Gelieri, eccetera. Gelieri. Esattamente, Gelieri. Comunque abbiamo visto che è un'immagine che ritorna, è un'atmosfera che ritorna, quindi ovviamente ritorna. Rivista. Sicuramente. Perché Medioevo si ritorna in senso positivo, decisamente positivo, perché la vostra musica, secondo io l'ho sentito parecchie volte il disco, sia il disco precedente, perché voi fate due dischi live, mi pare. Esattamente. Sì, abbiamo un disco acustico live vero e proprio. E poi abbiamo documentato una serata con ospiti, una serata di beneficenza con vari ospiti musicali, che si chiama Musichiere Benefico Invernale. Al Teatro Magnani di Fidenza, che è un teatro lirico. E poi il discorso è che il disco precedente è uscito l'anno scorso, o sbaglio? Esatto. Quest'anno subito un altro. Siete proprio prolifici dal punto di vista musicale. Sì. Ci abbiamo messo 10 anni a fare un disco e adesso poi abbiamo detto, no, aspetta, il prossimo in un anno lo facciamo tutto. Fatto e finito. Benissimo, il Medioevo, quindi musica vostra. La musica vostra che qualcuno ha scritto, c'è un po' di folk, c'è un po' di Pogues, secondo me, molto Pogues in alcuni momenti, sì. Ma i Pogues è una bella cosa, assolutamente. Non dobbiamo vergognarci. Assolutamente, anche se lui ride qualche volta dei problemi, però superabili, sì. Assolutamente superabili. Poi c'è del rock, dell'hard rock qualcuno ha scritto, anche del metal, perché, no? Sì. Di Parpogliano o no? Anche. Settantiano sicuramente, esattamente. Hard rock settantiano, poi ci sono dei momenti dove emerge più folk, dei momenti dove invece abbiamo deciso di spaccare tutto. Ma spaccate bene, perché il disco nuovo spaccate bene, spacca un po' più del precedente, secondo me. Il precedente, parlavamo prima con i ragazzi, è molto più folk, questo è molto più diretto, molto aggressivo. Sì, decisamente aggressivo in realtà, è dovuto anche alla produzione un po', la scelta di pezzi un po' più diretti e immediati, un po' anche la produzione, che, di cui siamo molto più contenti rispetto come a mai siete precedente. Più contenti perché mi pare che il produttore sia lo stesso, almeno sì, il produttore è lo stesso, ma in realtà il disco precedente era stato fatto prima che avessimo questo produttore. Ho capito. Quindi una post-produzione sul mixaggio. Quindi la vostra idea è di leggermente lasciare il folk per dare un sviluppo più roots, più sì. Pomposo, più forte, più rock. Sì, o no? Diciamo che volevamo avere dei suoni un po' più secchi e immediati, sia nelle parti più acustiche, più folk, che nelle parti più cattive. E l'altro suonava un po' più ovattato, quindi l'effetto rock veniva in qualche modo un po' allontanato dalla produzione. Ho capito. Anche perché cambia il mercato e sta cambiando anche molto il tipo di suono che si vuole ottenere per farlo suonare meglio sugli stereo, su tutta una serie di filosofie dietro a questa scelta. Ah, però dopo ne parleremo di filosofie di questo retroterra che c'è dietro. Parlane con Dario, che è il tecnico di queste robe. Lui, è lui. Benissimo. E salutiamo anche Marco Borgato, il nostro regista, per stasera, oggi mercoledì. Qualche volta capita anche a lui, vero Marco? Qualche volta capita anche a te, il Rockaway del mercoledì. Come sempre, Rockaway il mercoledì è proprio il centro dei Rockaway durante la settimana, è proprio live per antonomasia. Prima di partire per il live antonomasia, perché questo, cari ascoltatori, questa è una band assolutamente live. Siete solo in tre dei sei, però in tre che danno molto brio al discorso, cosa dite? Speriamo. Anche se avete solo una chitarra e un flauto. Beh, dobbiamo dirlo per forza, perché sennò faremo brutta figura. Sì, possiamo citare gli altri tre. Possiamo dirlo dopo, alla fine, se va tutto dirlo, bene. Però, okay. Citare gli altri tre che mancano, quello citiamoli. Sì. Citiamoli. Allora, c'è Ariuna Iacci, che è il nostro fisarmonicista e suona anche il mandolino. Bene. Abbiamo Tommy Celletti, che è il nostro batterista, e abbiamo Emiliano Occhi, che è il nostro bassista. Il batterista ha una funzione molto importante, fondamentale nella vostra musica, perché pesta alla grande, secondo me. Un fabbro. Esatto. Come un fabbro, pesta alla grande. Io ho sentito il disco, il nuovo disco, che pesta un po' meno, chiaramente, nel disco precedente, ma nel disco nuovo pesta, nel senso positivo del termine. Cioè, si fa strada. Proprio. Sì, è un pestone. È un pestone. Poi noi pestiamo lui a volte. Però. Voi pestate lui, sì. Sempre musicalmente parlando. Sì, c'è una democrazia totale nella band. Assolutamente. Anzi, direi anarchia. Anarchia. Allora, come sempre, come noi facciamo di solito, apriamo una finestra. La finestra è presentare il primo pezzo da disco. Lo presentate voi. Vi ricordate la traccia? È la prima e la seconda assieme, no? A proposito di De André e del sonetto medievale. Sì, come... Dimmi. È il pezzo che abbiamo citato prima, appunto, Si fosse fuoco, è una cover di Fabrizio De André, è preceduta da un intro che è presa da un film dannata, che è Bela Lugosi, in un film di Ed Wood. Voi amate il cinema, visto che nel disco precedente avete citato L'ombra del vampiro, mi pare. Sì. Anche in questo caso abbiamo una citazione cinematografica che vuole mettere un po' in un clima scherzoso, anche in un clima ironico, anche la canzone di De André, che è presa da un testo che comunque ha un tono beffardo. Cioè, decisamente beffardo. E anche come l'avete rivoluzionata, perché cari ascoltatori, voi sentite sì l'intro di De André, chi ama De André ricorda Se fossi fuoco, però l'avete proprio rimescolata a vostro piacimento. Sì, visto che anche quasi è un urlo quella canzone, è beffarda, è grottesca ed è anche molto, anche quella è molto anarchica sostanzialmente. Decisamente anarchica. Qualcosa che vuole distruggere tutto e quindi ci piaceva renderla così, così pesante. È un modo per iniziare i concerti oppure no? Sì. Iniziati i concerti con Se fosse fuoco. Ultimamente sì, la utilizziamo all'inizio dei concerti, abbiamo un po' cambiato la scaletta rispetto a quella del disco vecchio. Giusto, iniziate l'album e iniziate i concerti. È una bella mazzata. È una bella, un bel pugno sullo stomaco, esatto. Si diceva una volta. La sentiamo adesso, ok. Rock Wave, l'onda del rock. I have no home, hunted, despised, living like an animal. The jungle is my home. That I will show the world that I can be its master. I will perfect my own race of people. A race of atomic supermen which will conquer the world. Se fosse fuoco arderei il mondo, si fosse vento lo tempestarei, si fosse acqua io annegherei, si fosse Dio manderei nel profondo. Si fosse papa sarei l'orgiocondo, tutti i cristiani imprecherei, si fosse imperatore sa che farei, a tutti mozzerei lo capo a tondo. Si fosse morte andare da mio padre, si fosse vita fuggirei da lui, similemente pari a mia madre, si fosse cieco come sono e cui vorrei le donne giovani e le giovani, le vecchie e le lasserei a lui. è profondo. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Si dice molto, secondo me, Se fossi fuoco, un bel arrangiamento. È la prima volta che sento un arrangiamento proprio di questo genere, Se fossi fuoco. Di solito lo stornellano, lo prendono come stornello, copiando, allontanandosi poco dal modo di fare di André. Voi siete allontanati molto dal foro di anarchicamente parlando, facciamo dire così musicalmente. Bella, è una bella idea, secondo me, una bella idea. C'è stata difficoltà avere l'idea di fare un pezzo simile? No, in realtà è venuto molto spontaneo. Cioè, è una delle cose che ci viene più facili, storpiare i pezzi. Quindi... Ah, interessante. No, è mica storpiato, è una rivisitazione. Quando abbiamo pensato a Se fossi fuoco, abbiamo pensato che era già pronto. Cioè, siamo è chiaro. Quindi, no, non è stato difficile, non è stato problematico, è venuto molto fluidamente. Un primo take secco? Sì, no, primo o take, quasi. No, abbiamo fatto qualche provetta, l'abbiamo riarrangiata, però. Ma in realtà ci piace molto portare in giro anche la gente che ci ascolta in posti diversi, per esempio quelli che ascoltano più metal, portarli a far sentire anche delle altre cose, quindi metaforicamente portarli in un altro luogo. Sì, perché a proposito di meta, un sito del meta vi ha giudicato benissimo, è stato molto soddisfatto del disco. Sì, le recensioni di solito vanno molto bene, siamo ancora poveri, però le recensioni quelle che ho letto io erano positive, decisamente positive. Dimmi. Sì, non abbiamo ancora fatto la ricchezza, però comunque con le recensioni riescono, diciamo, a cogliere i punti del disco, i punti di forza, insomma, che ci contraddistinguono. Ci vuole pazienza, il disco è uscito da poco. Poi siamo molto ricchi interiormente, quindi sì. Siamo anche belli dentro, tra l'altro. Indubbiamente, non abbiamo le telecamere, anche se dentro le telecamere non vanno dentro, però dal punto di vista visivo... potete immaginare, ecco, possiamo immaginare. Sì. Due barbe e una non barba. Io non barba. Esattamente. Adesso cominciamo le cose belle, interessanti. Cose suonare. Serie. Cosa suonare? Dobbiamo suonare qualcosa. Giusto. Che cosa? Cosa suoniamo? Cosa suonate? Questa va benissimo. La presentiamo prima, cosa dici? Sì, prego. Presentiamola. Simone, giusto, no? Allora sì, Simone. Ecco, perfetto. No, posso sbagliare chiaramente. Allora, la canzone che facciamo adesso live si chiama Cans Marin ed è una canzone bretone tradizionale. E poi parliamo anche dell'origine del vostro nome, che è molto interessante. Sì. Sostanzialmente è nell'arrangiamento di Michel Tonnerre ed è una canzone bretone che sostanzialmente corrisponde al nostro 15 uomini. Quindi perfetto, decisamente una canzone marinara. Sì, ai lavori che non conoscono bene, chi è Michel Tonnerre? Michel Tonnerre è un vecchio cantautore che prese e riarrangiò moltissimi tradizionali bretoni. Ha qualche addentellato con Anna Stivell, no? Ha qualche. Qualcuno. Vabbè. Okay. Questa canzone è contenuta in uno dei nostri CD, uno dei live di cui hai parlato prima, certo, che si chiama proprio Cans Marin, ne prende il nome dalla canzone. Messo, adesso la sentiamo assieme. È un classico dei nostri live acustici, diciamo. Proprio da è piratesco. È piratesco. Piratesco, e cominciamo con questa per scaldare. Allora i Pox ci stanno bene, secondo me, sempre. 22:20, tutto in diretta. Silberhütte du Mort, Jopelaro, une bouteille de rhum. À boire le diable avait réglé leur sort, Jopelaro, une bouteille de rhum. Long John Silver a pris le commandement des marins et vogue la galère. Ils tiennent ses hommes comme ils tiennent le vent. Tout le monde a peur, Long John Silver. Cans marins, c'est le bahut du mort. Yop la ho, une bouteille de rhum. avoir le diable avec le sort. Yo plao, une bouteille de rhum. C'est Bill le second du corsaire, le capitaine Flint en colère, est revenu du royaume des morts pour hanter la cache au trésor. Quinze marins se battent de mort, yo plao, une bouteille de rhum. À boire le diable avait réglé leur sort. Yo plao, une bouteille de rhum. C'est un peu le contre-carré. Et tu rasous, tant d'autres sont allés. Quelques-uns au vert, quelques-uns par-dessus bord. Le monde pour nourrir le poisson d'abord. Quinze marins se battent de mort. Yo plao, une bouteille de rhum. À boire le diable avait réglé leur sort. Yo plao, une bouteille de rhum. Tous nous finirons par danser la gigue, la corde au cou, au quai des pendus. Toi, Tom Forest, et toi, Tom Merrick, si près du Tibet, j'en ai le cou tordu. Quinze marins, c'est le bahut de mort. Yo plao, une bouteille de rhum. Avoir le diable avait réglé leur sort. Yo plao, une bouteille de rhum. Bella, molto bella, molto marinaresca, possiamo dire questo, molto Pox, non proprio Pox, bello, bravissimo la performance che hai fatto al flauto. Ah, grazie. Cioè, veramente trascinante. Incantado. Trascinante. Molto bello, molto interessante. Loro si lamentano perché sono troppo. Perché suoni troppo? No. Sono troppo. Lasci poco spazio a loro per quello. Sì, sì, sì. Li lascio in secondo piano. Li lascio in secondo piano. Questa cosa dei microfoni non ci conosciamo abbastanza bene. Non è vero, perché ho visto Simone che ti ha dato l'ok. Vai, vai, vai, ha detto. Io l'ho visto, d'intesa dopo tanti anni. Dopo tanti anni, esatto. Appunto, è una cosa che qualcuno vi ha chiesto. Come, sono nel 97 che siete assieme, circa, mi pare. Sì. Sì, come struttura. Sì, sì. Come band. E qualcuno, come band. Qualcuno vi ha chiesto, ma come mai siete riusciti a rimanere nel 97? E uno ha risposto, perché litighiamo, ma democraticamente. Esatto. Sì. Beh, è così? È vero. Litigate democraticamente, perché per fare un pezzo bisogna sempre litigare, bisogna dare le proprie conoscenze, le proprie impressioni, non è così, ragazzi? Soprattutto 6 test. Attualmente siamo in 6 informazioni, quindi mettere 6 test d'accordo non è sempre una cosa semplicissima. Ma anche perché semplicemente non necessariamente litighiamo, abbiamo anche magari un litigare creativo. Esatto, un litigare creativo relativo al fatto che abbiamo tanti ascolti diversi in testa, tante idee diverse di quello che si può fare con questo gruppo, tante idee dei colori che si possono produrre. Nel disco ci sono molti colori, anche riferimenti alla letteratura, al cinema. Come mai questo sviluppo totale a 360 gradi? Positivo, assolutamente positivo. Ma diciamo che il gruppo negli anni è diventato anche una valvola di sfogo di creatività in generale, quindi è normale per noi che quando qualcosa ci emoziona poi lo facciamo finire dentro alla band. È un modo di fare rock un po' vecchio, ma che a noi piace molto. Cioè, non vogliamo fare degli album che hanno una coerenza eccessiva dall'inizio alla fine o che suonano nello stesso modo dall'inizio alla fine. Ci piace più pensare che il gruppo è una specie di calderone dove si può infilare tutto quello che ci interessa, e questo ci mantiene anche abbastanza divertiti nel fare i pezzi, invece che non li facciamo macchinetta, anzi ci lavoriamo molto sopra di solito. Anzi, di solito facciamo anche fatica poi a tirare un cerchio alla fine e dire il disco fila, c'è continuità, perché è difficile anche poi creare un flusso all'interno dell'ascolto quando si mettono in fila le tracce. Sì, sono d'accordo con te, però Beer and Back Again, che è uscito velocissimo rispetto ai suonatori di Brema, no? è così. Sì, musicanti di Brema, sì, scusa. È uscito con... cioè, le idee, c'erano tante idee da gestire, quindi avete deciso di... C'era anche la voglia di far uscire subito, immediatamente, un po' l'entusiasmo maturato. Ma non è cioè, far uscire subito un disco dopo qualche mese non è pestarsi i piedi, o sbaglio, secondo voi? Secondo me dipende molto da quanta roba sia in testa. Tipo, se dovessimo farlo adesso, in 6 mesi non ce la faremo mai. Ho capito. Al momento avevamo abbastanza energie e tante idee. Anzi, abbiamo addirittura scartato delle cose che non... Altre cose pronte, sì, praticamente. C'è stata una specie di cernita. Sì. In senso positivo, chiaramente. Quindi ci sono dei pezzi ancora pronti, messi nel cassetto, sì, che potrebbero uscire. Pezzi che magari però l'arrangiamento non ci convinceva del tutto, oppure semplicemente non erano coerenti, forse con l'insieme del disco. Però certi pezzi potete esibirli dal vivo, li fate sentire lo stesso oppure no? Alcuni che abbiamo fatto in passato, sì. Dico quelli nuovi che volete provarli. Farli sentire al pubblico, provarli, anche se non sono stati incisi. È possibile, esiste, cioè fate questo ragionamento oppure no? Quando sono finiti, a volte sì. A volte sì. È successo con i pezzi qualche di volta. Questo disco, nel senso che noi portavamo in giro i pezzi di musicanti di Brema, però nel frattempo cominciavamo a assaggiare la risposta del pubblico su un po' di brani. Una questione, anche se fosse Fuoco, per esempio, certo, che abbiamo sentito, abbiamo cominciato. Ma è positivo, secondo me, sì, è positivo far sentire alla gente già i pezzi che ancora non sono incisi. Sì, perché si abituano. Ma detto, cioè, come dire, per qualcuno di sì, no? Esatto, però in realtà non inventiamo niente di nuovo. Molti gruppi degli anni 70 andavano dal vivo, certo la gente forse era un po' più scoppiata, sì, però, però a parte questo, i gruppi andavano, facevano 4 classiconi spaventosi e poi c'erano improvvisazioni e un sacco di pezzi nuovi e la gente andava a sentire il disco nuovo, ma che doveva ancora uscire. Questo è vero, hai ragione. Mi ricordo, dimmi. Ora l'ascolto che c'è adesso è molto molto differente, però penso che non ci sia niente di sbagliato. Noi che abbiamo provare a far sentire alla gente. Noi che abbiamo una certa età, io e Marco un po' meno, io sono vecchiotto, qualcuno mi dice il vecchietto quando mi chiamano. Io ricordo i Grateful Dead. I Grateful Dead avevano questa caratteristica di fare dei live show che non finivano mai, pezzi classiconi, e poi ci mettevano dentro tutte le cose diverse. Soprattutto di pubblico scoppiato. Molto scoppiato, quelli erano molto scoppiati, però erano straordinari dal punto di vista live. Era un live assoluto. È un tipo di ascolto, come diceva lui, molto diverso, nel senso che spesso adesso la gente viene a sentirti quando sai pezzi a memoria. Certo, Invece l'ascolto... Non so, per esempio a Londra, quando siamo stati a Londra quest'estate, io e Simone abbiamo fatto qualche suonata nei pub e abbiamo visto che il tipo di ascolto è ancora quello vecchio stile, cioè la gente si siede e se qualcuno parlotta li sgrida perché si deve sentire il concerto, un po' come andare al cinema, cioè un po' come stare a vedere uno spettacolo, quindi cogliere anche le sfumature. Invece qui in Italia... non dico che una cosa è migliore dell'altra, ma ci capita spesso che invece la gente viene molto per saltare, divertirsi, ballare, quindi è un ascolto molto diverso. Se non conosci già il pezzo e il pezzo è un po' intricato, ti può mettere in difficoltà, in effetti. Cioè all'estero, a Londra tu hai detto, c'è un religioso silenzio per sentire i pezzi, nel senso che tutti stanno attenti a quello che cantate, quello che fate. In Italia è un po' diverso, è il ragionamento che tu hai detto. Capita. Ok, andiamo avanti, sono le 22:30, abbiamo ancora tempo fino a mezzanotte. L'atmosfera si sta scaldando, qua è caldo in ogni caso, però si sta scaldando, vedo, sento, è bello. Così, visto che abbiamo tante cose da fare, segniamo un altro pezzo live, dai, che mi piace la voce di Simone, mi piace molto la voce di Simone, che è proprio dà proprio una forza incredibile. Quello che volete. Necropolitan. Sa che io sconvolgo sempre le scalette, ma Rock Wave è così. Non è un prefissato, deve essere così. Va bene, anche perché non c'è niente di prefissato neanche in quello che stiamo per fare noi, visto che non l'abbiamo mai provato. È tutto live. È una canzone che era contenuta in Musicanti di Brema. Però era un pezzo pestone, questo qua. E adesso lo facciamo in acustico. Bene. Si chiama Necropolitan. Bene, ok. Thank you. a spoon from this river, let tune for a wicked soul. Here we flow down this river, anchor on the rails and Sunday clothes. Your time is in this churchyard where we go, Mama. Hey, when do we go? Epigraphs, we are what we read. Necropolitan, previous issues, magazines. We time in our old garage when they hate a mama. Hey, when do we go? Not in a bar. Upon their tomb, they dream of smoke. They dream the day when all the papers burn, burn, burn, burn, burn, burn, burn down, burn down low, down, down, down, down low, down, down, down, down low, down, down below. Bello, bello, molto bello. Avevo questa idea, non so se siete d'accordo. Avete qualcosa di Incredible Street Band e poi l'energia di Gong, perché lui canta in modo molto forte, molto potente, molto al di sopra delle linee, secondo me. Cosa dici? Pure troppo. Pure troppo, no, pure troppo. E questa è una commistione. Io ho avuto questa idea, non so se Marco sia d'accordo, ma mi è venuto in mente questo. Molto parlano di Jethro Tull nella vostra musica, sì, perché c'è il flauto, ma non è così, secondo me. Jethro Tull, solo perché c'è il flauto, non è Jethro Tull la vostra musica, si addentra nella musica folk, ma non è folk, è folk però a 360 gradi. Il cantare di Seymour, che è molto forte, molto potente, va a quei gruppi che facevano folk, ma un folk molto estremista, secondo me, se si parla degli anni 70. Bravissimo. No, io apro così. Sì, no, è vero. Molto spesso i giudizi vengono dati in maniera molto affrettata, guardando molto al sound e poco alla struttura delle canzoni. Invece quello che dici tu è verissimo, secondo me. Perché il sound, sì, la struttura, perché il flauto, beh, stasera adesso è in primo piano, che siete solo in tre. Sì, il flauto, di solito c'è anche fisarmonica. Esattamente. Quindi è quello il discorso, secondo me. Certo, è facile passare per Ian Anderson il flauto, sì, però non è così, diciamo che è molto facile per chi cerca di trarre un giudizio guardare prima la formazione. Di solito a volte la formazione viene in testa a una recensione, cioè prima si guarda gli strumenti, nomi e strumenti, e poi, e quindi può capitare che in Italia, comunque dove c'è un tipo di panorama relativo alla scena folk eccetera, ci si possa trovare accostati spesso a gruppi che in realtà non hanno nulla a che vedere con noi, per esempio i Modena Stirem. Ecco, è vero, anche quello, parlano di quello, sì, esattamente. Sì, l'origine, cioè, l'entroterra emiliano può darsi, però non fanno parte del... E, sai, il discorso è che i Modena Stirem all'inizio di carriera facevano musica celtica, può anche essere così, sì, o cosiddetto combat folk, sì, esatto. Ma non è, cioè, è un po' distante, non so, a mio parere, dopo. È una cosa molto diversa. Spesso le riviste di orientamento metal ci trovano un po' più leggere di quello a cui sono abituati e quindi ci categorizzano all'interno di quello che per loro è il folk normalmente, quindi l'associazione con i gruppi che in Italia sono conosciuti per il folk, quindi Modena Stirem è il primo nome iconico che gli viene in mente. Certo. Ma anche perché magari c'è meno conoscenza di altre cose e quindi viene subito spontaneo categorizzare così, insomma, secondo me. Ma il cantato di Simone taglia il testa al toro, sì, secondo me. Assolutamente. È una delle cose. Testa al gallo. Esatto. Visto che per citare Ivan Graziani è un grande. Esatto. Dimmi. No, dicevo, a parte se ti becca nella schiena, ma comunque dicevo... No, dicevamo, insomma, la voce è sicuramente una delle cose... È una caratteristica, decisamente una caratteristica. In alcuni punti, penso non sempre, ma a volte arriva potente o tagliente, per cui già determina un cambio. Esattamente. Anche nel momento in cui stai sentendo forse la cosa più folk, però arriva la voce. Ma penso anche le chitarre, specialmente nell'ultimo disco. Sì, nell'ultimo disco il folk, sì, c'è qualche tendenza al folk, ci sono certamente, però non è così pregnante come rispetto al disco precedente. Vi siete allontanati, volutamente allontanati, perché avete deciso di fare un'altra direzione, andare su un'altra direzione. E mi pare, è l'evoluzione delle cose, o no? Sì. Non l'evoluzione della specie, anche l'evoluzione della specie. La specie anche, no? Quella, quella è un'altra cosa. L'involuzione in questo caso. Benissimo, allora sono le 22:33, ci riposiamo un secondo perché ho fatto due live, anche se Rockwave per antonomasia è live al 100%. Sentiamo un altro pezzo da disco che abbiamo scelto. Cosa avete scelto, ragazzi, adesso? Allora, c'era Folk Metal Baby, se non erro, esatto, in scaletta. Folk Metal Baby è il pezzo che noi della redazione, grazie ad Alberto Pisco, salutiamo il nostro direttore artistico che vi ha voluto fortissimamente qua stasera, abbiamo scelto come disco da trainare il vostro album nuovo. A me è piaciuto molto perché è molto potente e anche molto ben fatto, anche azzigogolato nella maniera giusta. Folk sì, ma folk tra virgolette è la potenza più che il folk. Poi parleremo del testo, spiegheremo il testo. Magari e poi parliamo anche dell'origine del vostro nome, che avevamo detto prima, adesso per motivo di tempo non abbiamo detto, ma dove, perché anche quello è da un'indicazione molto importante. Adesso sentiamo il pezzo in ogni caso. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, l'onda del rock. There was a young lady, she was sad, she was kind. A library dress and a glass full of wine. We met at the abbey, we were hiding from cold. But I fell back the shivers when she said no. So I gave her one kiss and tipped my own hat. And I said to her eyes, you ain't seen nothing yet. She looked at my mug and asked, what do you mean? Well, the answer I it's folk metal! From Broken to Bremen, from Pearson to Cork, behold the grim reaper just stored in a big fork. From Glasgow to Dublin, from Porto to Brest, you hear the metal, my friend! pleasure, no ready-made fun. We don't need your party to be totally drunk. No matter how bright is the cross on your neck, we'll choose the right sentence between cake or death. So throw away your chain balls and join the grim ship. It's freedom but wicked folk metal, baby. Rock Wave Live. Fino all'ultima goccia, Marco, fino all'ultima goccia, perché la tradizione di Rock Wave Live è tagliare, non si taglia niente qua, assolutamente, giusto. Niente, assolutamente giusto. Niente. Allora, adesso mi spieghi il pezzo. Volevi allora, spiegare. Folk Metal Baby. Che bello, è molto trascinante, ripeto, molto pox, assolutamente pox. Esatto, sì, è nato molto così, avete fatto bene... Anzi, qualcuno mi ha anche chiesto, ma è una cover dei Pogues quella lì? Vedi. No, non è una cover dei Pogues, ma comunque, intanto avete fatto bene a mandarlo come pezzo di traino, perché è nato apposta, è un pezzo radiofonico. Assolutamente, assolutamente. Studiato nei minimi dettagli, esatto, per colpire le orecchie del pubblico, entrare nella testa. A parte questo, allora, il folk metal è da una parte un genere che è nato, cresciuto in questi anni... In Italia è cresciuto, sono nati festival, eccetera, e ci siamo entrati anche noi, anche se siamo qui da tanti anni, sì, ripetiamo, dal 97, quindi la formazione, esatto, più o meno nel 97. A mettere insieme l'hard rock e il metal, certo, con la fisarmonica, il flauto, eccetera, e c'è chi lo ha fatto anche molto prima di noi, soprattutto. Chiaro. E comunque, quindi è un genere in cui siamo entrati e per molti versi è divertente, anche se noi... Siamo sempre un po' distinti, il folk metal tende ad essere concepito come molto più pesante. E da una parte ci piace, e dall'altra ci piaceva anche, diciamo, farci beffe del folk metal. È la stessa cosa. Esatto. Ma proprio perché è comunque un genere che, al contrario di molto metal, invece vive della sua stessa autoironia. Ah, ho capito. E quindi senza quella non esiste. Secondo me non esiste neanche il genere. E quindi la canzone nasce con quello. Il divertimento penso che passi, che arrivi, certo, diciamo, sì, a chi l'ascolta. Come no. E insieme a questo divertimento musicale c'è anche un testo ironico. Sostanzialmente ironico, con alcune citazioni, qualche volta anche comiche. E che tende a tenersi in un equilibrio particolare tra il serio e il faceto, diciamo. È stato difficile musicare un pezzo simile al di là dell'ironia del no, testo? Direi che è stato uno dei pezzi più semplici di questo disco. Proprio libero, senza nessun preconcetto, sì, musicale. Sì, aveva una melodia forte e sostanzialmente è costruito su quella melodia e la canzone va. Ci piace citare comunque il finale che chiude, che è quasi epico, sì, diciamo, certo, questa marcia epica finale, perché abbiamo una cornamusa in prestito, nel bene, senso che l'ha suonata Maurizio dei Folkstone, che sono nostri amici, abbiamo suonato tante volte con loro e lui si è molto gentilmente prestato e ha scritto lui una parte secondo noi bellissima, perfettamente adatta alla canzone. Adesso andiamo all'origine. Il vostro nome è Kalevala, che vuol dire la terra di Kaleva, cioè la terra degli eroi. Dove è nato il discorso? Perché avete deciso di chiamarvi così? Tanti anni fa abbiamo deciso di chiamarci così. La pronuncia giusta è Kalevala. Kalevala. Non è che noi siamo proprio sicurissimi. Ah. Comunque è una siamo ormai convinti. È un nome finlandese, nel caso. Finlandese. È un poema finlandese che ha una bellissima storia, perché è stato, i finlandesi sono stati invasi e quindi non hanno potuto diffondere la loro cultura, e l'unica cosa che diffondeva la loro cultura era questo poema che loro cantavano. E fino alla, alla liberazione, diciamo, loro hanno continuato a cantare di nascosto il poema per mantenere una radice culturale. Quindi è una bellissima storia ed è un poema che ci caratterizza forse rispetto ad altri gruppi metal, perché il tema non è guerresco, ma è un tema sciamanico, cioè è un tema di magia, di magia. Quindi è anche molto concreto, come tutti gli antichi poemi, parla di raccolti, di birra, di botti, cioè anche molto vicino alla terra e agli elementi naturali. Era uno spirito che ci piaceva comunicare. Quindi non abbiamo mai fatto un testo sul Kalevala o che parla del Kalevala. Al contrario di molti gruppi che escono negli ultimi anni di folk metal, proprio dalla Finlandia, che invece parlano proprio completamente nei dischi, dall'inizio alla fine parlano di questo tema. Sono dei concept, hanno anche fatto un concept prog a riguardo, in Italia. Noi non sapremo farlo, nel senso che non siamo così dentro la materia da poterlo fare in maniera convincente, lo lasciamo fare a loro, e a noi piace invece ispirarci più a un'idea. Che non ha, ti ho capito. Benissimo, è chiarissimo il discorso. Sì, avete suonato in parecchi posti, in festival celtici, in castelli, in teatri, in pub, in sagre, in fiere. Bello, bello. Ci adattiamo, ci adattiamo a tutte le situazioni. E poi avete suonato insieme anche un ex Jethro Tull, ex perché adesso gli Anderson li ha fatti sparire tutti. Sì. Il despota, sì, sì. Ma lo farò anch'io. Anche te, sei un, cioè, farei sparire il Jethro Tull. Esatto, no, i Kalevala rimangono dove sono. Nel caso di Jethro Tull, adesso, fra qualche giorno, viene qua a Padova a fare Fixed Blick, parte prima e parte seconda. Lui. Da solo? Sai che non lo so. Penso che abbia un gruppo. Non c'è scritto però Jethro Tull, c'è scritto solo Jan Anderson. Allora sì, da solo. Cioè solo con una band, probabilmente con l'orchestra. Sì, sì, è un dittatore assolutamente. E quindi, come avete suonato con Clive Bunker? Sì. Avete fatto l'occasione, esatto. Un'occasione, questa del Brintal Celtic Folk Festival, che è un festival bellissimo. È anche qui vicino, sì, perché è Valstagna. È Valstagna, esatto. E quindi è un festival in cui abbiamo avuto la fortuna di suonare diverse volte. Bene. Ed è bellissimo, un festival che consigliamo sempre a tutti. Facciamo quando pubblicità. Periodo dell'anno. Siamo anche gratis, noi dall'altra parte siamo sul libretto della Proloco della Valstagna. Esatto. Quindi sei a posto. Siete a posto al 100%. È la fine di agosto. Quindi è stato da poco. Insomma, sì, lo apprezziamo molto perché non ha avuto paura di mescolare i generi. Adesso diventa abbastanza normale e è diventato abbastanza d'uso anche nei festival celtici inserire delle commistioni. Montelago lo fa già da tanti anni, ma non era così comune, e quei ragazzi del Brintal non hanno avuto problemi di sorta, hanno mescolato da sempre i generi con piacere, sono anche molto ospitali, il festival è molto bello, frequentatissimo, non si riesce quasi a entrare, c'è una collina completamente ormai, ha avuto molto successo, quindi c'è una collina completamente murata di persone. Bello, interessante. Qui è Valstagna, qui vicino, quindi facciamo pubblicità perché se lo meritano. Cioè, fatto tutto da soli. Anche una delle prime occasioni in cui abbiamo suonato davvero davanti a delle folle smisurate. Com'è stata l'impressione? Ed è stato bellissimo. Infatti siamo molto affezionati a questo festival anche per quello, e perché poi i ragazzi, insomma, ci hanno chiamato a suonare in queste situazioni bellissime senza sapere chi eravamo. Insomma, si sono fidati, diciamo, hanno però avuto è andata benissimo, hanno avuto fiuto, quindi infatti ci hanno poi richiamati, certo, diverse una volte. Cosa bellissima. Ok, andiamo avanti, allora parliamo di un altro pezzo live, sì, possiamo fare un altro pezzo live, voi mettiamo su un pezzo da disco, come volete voi? Facciamo un live. Che cosa? Facciamo Waterloo. Ah, bello, in francese ragazzi, in francese, poi cantato in modo meraviglioso da Simone, non so come faccia a cantare un pezzo simile, è difficilissimo a mio parere, dicevano i ragazzi, è stato difficile anche arrangiarlo però, vero? È stato difficile arrangiarlo stasera senza averlo provato. Ah, quindi perfetto, interessante. Sarà abbastanza in paranoia in questo momento. Perché non sarà difficile bene arrangiarlo sul momento mentre lo stiamo Ma suonando. È bello così, e questa è la bellezza di Rockwave. Box non si farebbero problemi. No, non penso, assolutamente, andrebbero sul sicuro loro. Mm. Si l'Occident était vraiment berceau de ma culture, derrière moi j'entendrai pas gens qui murmurent. Dit que dans l'univers nous sommes tous seuls et solitaires, dont l'univers a préféré se satisfaire. Ma soirée vomi, café, fichu, boulot et potin des idiots. Voilà pourquoi s'inspirent mes légendes médiévales. Quand l'ennemi se réfléchit sur mon état, des tourbillons de mon esprit s'y résignent hélas. Dans l'assailleur tout l'un du temps et de l'espace. Face au siècle 19e, c'est pas le rêve que je rêve et rêvé. Au lieu de l'épée, j'ai le mousquet. Cet uniforme ne peut pas me protéger. Mais le général me dit pas mal. T'es prêt pour faire la guerre à Waterloo? Comme Dante, je vais défaillir, je connais bien l'histoire. Aux Français, rien que merde, et aux Anglais, la gloire. Route vers la Belgique, j'ai un brouillard aux yeux. C'est pour cela qu'à l'arrivée, je me sens comme Hulk. Déjà vaincu, t'as pas d'idée, seulement ton sang qui bouille comme la marée. Au lieu d'un chef, j'ai ma colère qui grince mes dents et tourbillonne mes bras trop raides. Au lieu de la peur, j'ai la folie qui fait danser mes pieds. À Waterloo! France souveraine, fierté de l'empereur, viens, admire ton soldat qui bataille de cœur. Proud sons of England, let's roll up and see. Through Wellington's armies, he sings Salavie. C'est depuis lors, se lutte encore contre le déni et l'ignorance, l'hypocrisie et la malchance, l'exploitation, la religion et le gouvernement. Et ça c'est tous les jours ma Waterloo. Ok, a Waterloo. A Waterloo. A Waterloo. Hai suonato due flauti, Dario. Adesso mi dici che uno era un flauto Ho suonato un flauto traverso classico e un tin whistle che tra l'altro ha una storia abbastanza particolare. Adesso la spieghi. Il bellissimo costruttore Colin Goldie, che è sito in Germania, è stato contattato da me una settimana prima di entrare in studio perché ero disperato perché mi serviva un flauto. Allora l'ho chiamato e lui, facendo una telefonata intercontinentale, mi ha provato al telefono tutti i whistle per farmi sentire quello che ne aveva costruiti tre, quello che mi piaceva di più, e me l'ha spedito in posta prioritaria internazionale ai limiti proprio. Mi è arrivato il giorno prima di entrare in studio. Perfetto. E l'ho usato per registrare alcuni pezzi in questo disco. È stata veramente una corsa contro il tempo e l'ho anche ringraziato nel tra ringraziamenti del disco, perché ha fatto una cosa splendida. Ha fatto una cosa splendida. E lui, tra l'altro, è un costruttore ultra noto che ha costruito per un sacco di musicisti importantissimi. E mi ha anche regalato, come dire, il piacere di poter suonare un suo strumento. Suonare un suo strumento con diciamo una corsia preferenziale per la costruzione, perché di solito ha tempi di attesa lunghissimi. Bene. Persone artigiani di altri tempi. Certamente. Adesso mi spieghi, Simone, il significato di Waterloo. Allora, la canzone in realtà Waterloo Napoleone, sì, certo, cioè, perché nel libretto spiegativo del disco c'è proprio Napoleone dentro. Esatto, vero? Sono dei riferimenti in realtà metaforici, perché la storia è un po' particolare. Ci immaginiamo, come in molte canzoni in realtà in questo disco, dei personaggi un po' nerd. un po' sfigati, sì, diciamo. Un po' sfigati, dai. Quindi anche questo è il caso, ma perché noi conosciamo sulla nostra bene. Pelle, ah, il nostro tema, è un tema conosciamo che bene. Conosciamo bene. Immaginiamoci un classico nerd tutto sommato esaltato, come ci capita di incontrarne spesso, esaltato magari proprio per sulle leggende medievali, no? Di quelli che fanno tanti giochi di ruolo, eccetera, cioè, come noi, cose là. Esatto. E quindi, però, un giorno in questi suoi sogni a occhi aperti, diciamo, si ritrova da tutt'altra parte. Cioè, lui è nell'esercito di Napoleone, e il problema è che deve sopravvivere. Deve sopravvivere. Il problema è che lo mandano proprio a batterlo a combattere, quindi perfetto. È un problema. Lui, sì, la storia la conosce bene. Come è andata a finire? Dice, non andrà benissimo. Però da questo impara sostanzialmente a affrontare tutto. Cioè, sa già di avere perso, però attacca a testa bassa, senza ragionare e via. E questo gli insegna una lezione nella vita. Mandare un po' a quel paese tutto quanto, l'arroganza della gente o l'ignoranza, o il che sia quello, che sia il governo, che sia tutto quello che c'è. Che quindi il potere in senso generale. Esatto, che lo fa incavolare quella giornata. Bene, lo attacca a testa bassa e questa è la lezione. Musicalmente è un pezzo molto vivace, molto accattivante, quasi senza fiato, ci lasci senza fiato quando lo infatti sentiamo. Non riesco neanche io a prendere esatto, il fiato, per quello ho detto che è molto difficile cantare. No, quello infatti è sempre stato complicato, qua era più facile perché magari l'abbiamo fatto un pochino più lento, più lento, leggermente più però lento, però sì. La versione elettrica è abbastanza devastante, sì. Fanno correre. Sì, assolutamente. Benissimo. D'altro canto l'ho fatto io, sto cantato, quindi sono un pirla. Tutta colpa sua. Assolutamente colpa tua, nel senso positivo del termine. Benissimo, adesso sentiamo un altro pezzo del disco, però voi potete ricordare, abbiamo parlato di festival, avete delle date dovete abbiamo diverse suonare. Date adesso mi sono fatto il foglietto citiamo adesso, poi lo citeremo anche alla fine del programma. Allora, questo venerdì, cioè esattamente dopodomani, il 5 ottobre, siamo a Sermide in un locale Arci che si chiama Cinaschi, e provincia di Mantova, è Sermide, così chiariamo bene. Poi abbiamo la fortuna di andare dal 17 al 22, andiamo in Scozia a suonare. Ah, bellissimo, avete qualche data là? Sì, suoneremo a Perth, a Glasgow e a Edimburgo, quindi insomma. Tra città non da poco. Quindi venite a vederci. Diciamo. Via internet può darsi, via internet, sì. Esatto. Bene, magari uno si fa un giro in Scozia, che lo può fare, sì. Quelle parti. Poi il 26... Ma come mai in Scozia avete... Vi hanno chiamato in qualche festival? Allora, noi conosciamo un gruppo che avevamo chiamato a suonare con noi al nostro release party, si chiamano Stramesh, sono un gruppo scozzese che ci piace molto e ci piace molto suonare con loro. Adesso andremo noi a suonare da loro, giustamente. E torneremo senza il fegato, conoscendo gli Stramesh, perché ci sarà qualche giorno di devastazione. Di bevute colossali. Anche due di loro fanno, lo dico perché è una curiosità, fanno parte del clan Wallace, cioè sono gli eredi diretti di William Wallace, Braveheart, quello del film. Ah, però... Quindi fin da piccoli gli insegnano a combattere con la spada, mani nude, quindi sono anche molto rissosi, però per fortuna sono dalla nostra parte questa volta, quindi non temiamo niente, anche perché non abbiamo una fisicità che ci permette di difenderci più di tanto. Quindi ci sono queste date da fare e quindi ci sarà da suonare chiaramente, pezzi esatto. Vostri assieme a loro. Esatto. Poi andiamo avanti, sì, vai. Abbiamo ancora il 26 ottobre, che è un altro venerdì, siamo a Castiglione delle Stiviere. Provincia di Mantova sempre. Ancora provincia di Mantova. Esatto. Mantovano vi piace? Ci piace molto Mantovano. Riusciamo a starne lontani, all'Arci d'Allò. Poi saremo il 1 novembre a una festa, la festa di Semain, a Sarzano, che è in provincia di Reggio Emilia, un posto con un castello bellissimo vicino a Casina. C'è un castello, un borgo medievale stupendo e siamo nei pressi di un locale che si chiama Matildica in onore di Matilde di Canossa. È proprio tutto, ad hoc. Poi saremo il 3 novembre al Negrar di Verona, già più in zona. Sì, qui vicino. Al Sin City. Ok. Al Sin City, giusto? Sin City Negrar, sì. Vabbè, adesso... Negrar dovrebbe essere la frazione. Ah, ok, quindi Negrar è un quindi posto. Sono un pirla io. Ok, va bene. Ok, grazie Dario per avermi corretto. prima che arrivi la gente di Negra, di Negrar, il momento giusto, chiaramente. Io credo che non siamo tanto distanti. No. Magari quindi è Negrar, come si pronuncia? Negrar. Non lo so. Neanche il più saggio può sapere. Neanche più saggio. Negrar. Negrar. Marco, male confermato che Negrar. La regia che ci sta compatendo. Quindi lui è più saggio sapeva, dei saggi. Lui sapeva. Va bene. Allora, mi sembrava un nome da locale rock, invece di che... E poi il 10 novembre siamo al Boulevard a Misano Adriatico e saremo alla release party dei Diavola Rasa, che sono altri nostri amici, stavolta romagnoli, con cui abbiamo già suonato in diverse occasioni. Stavolta sono loro che fanno uscire il disco e chiamano allora noi. Vi chiamano? Sì. Bene, avete un sacco di date, mi pare. Abbiamo un sacco di amici. Amici che procurano date e viceversa, è una cosa molto positiva, secondo me. Sì, sì, sicuramente... anche un tipo di ambiente dove abbiamo trovato molta collaborazione. Sentiamo un altro pezzo da disco. Cosa avete scelto adesso? C'era Nigel's Nigel. Got a Sword, mi pare. Esatto. Bene, lo sentiamo e poi ne parliamo, sì. Ok? Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Live. Sì, sempre Rockway Live con Marco Borgato in regia, Maurizio Calzavara alla conduzione, i Kalevala, è giusto la sì, pronuncia? Giusto. Che sono venuti a trovarci stasera per presentare la loro musica, musica potente, forte, folk tra virgolette. Io dico sicuro tra virgolette perché il disco nuovo, questo che stiamo presentando adesso, There and Back Again, è molto rock. Molto rock, molto e anche pox, e anche punk in alcuni momenti. Il punk fa bene alla salute. Marco è un grosso stimatore dei Ramones, quindi di tutta l'epopea punk, un grosso cultore del punk. Qualcosa di punk c'è, dai. Assolutamente sì. Anche e soprattutto la voce di Simone, che è punk, secondo me. Cosa dici? Grazie, farmi un complimento. Bene. Questo qua. Veramente. Perché a volte si sente magari... Ma il punk in senso positivo, eh? Esatto, cattivo. No, ma a me piace molto. Mi piace il punk, tra l'altro... Vabbè, sei il primo che me lo dice, mi fa piacere, perché invece di solito magari penso, la voce è troppo... No, la penso così, la penso così, perché spacca, e anche in quel senso là anche. Sì. Ok, adesso facciamo la solita domandina dell'Isola Deserta. Cari ascoltatori, io l'ho pronunciata prima, di solito non lo faccio, ma sono stato buono stasera, perché vengono da Parma, ho fatto tanti chilometri, quindi... I 5 dischi da portare su un'isola deserta, a vostro piacimento, non si può copiare... come la regola ferrea di Rock Way, che va in onda da 10 anni circa, questo giochetto da 10 anni. Quindi Pate Bobis, a chi comincia? Inizio io. Sì, inizio. Dario, comincia a te. Dario, dai. Allora io porterei Revolver dei Beatles, Poi porterei... Ti hai influenzato Revolver dei Beatles? Assolutamente sì, però l'ho consumato, non andava più, l'ho dovuto ricomprare. Bene. Poi l'ho comprato anche in vinile, poi l'ho comprato in doppia copia in vinile. Perfetto, quindi è una collezione totale di Revolver. Poi porterei Bossa Nova dei Pixies. Ah, come mai hai citato i Pixies? Un gruppo che ama Sono particolarmente uno dei miei gruppi il nostro ben amato in regista. Assoluto, li ho anche visti dal vivo 2 anni fa e ho pianto come una vite tagliata durante il palco quando hanno fatto i pezzi vecchi. Ah. Poi porterai Grit di Martin Bennett. Chi è Martin Bennett? Che era un piper scozzese che è morto giovanissimo al quinto disco e ha fatto... Tra l'altro Grit è stato il penultimo disco che ha fatto quando era ormai stroncato da un tumore ai testicoli. Ed è stato una figura importantissima per tutta la musica tradizionale, anche oltre oceano, nel senso che ha partecipato a session in America, in Inghilterra, ed era veramente una figura fondamentale. Poi porterei, ci devo pensare, ok, computer dei Radiohead, visto che sono venuti qua recentemente, che io non ho visto perché ero l'unico morto di fame che non aveva il biglietto, non avevo il biglietto no, perché in realtà è stata spostata la data, è stata spostata di qualche mese, sì, esattamente. E poi porterei un disco che sicuramente anche loro apprezzano, che è Bloody Kisses di Type O Negative. Come mai Type O Negative? Perché tra l'altro li ho scoperti quando già suonavo con loro e sono un gruppo che mi ha influenzato tantissimo, che ancora ascolto adesso. E secondo me, a parte che loro stessi erano fans dei Beatles, quindi certo, si ritorna al primo disco che ho citato, e poi perché hanno avuto un modo di suonare, un modo di comporre, un'ironia, hanno rotto gli schemi, hanno portato secondo me qualcosa che non c'era, al di là della musica. Cioè, al di là della musica era anche l'autoironia del gruppo, come noi vogliamo essere. Infatti io mi ritrovo molto per certe cose, e si era ventilata anche qualche anno fa, qualche anno che si ventila l'idea di fare una cover del Type O Negative. Chissà se la faremo un giorno. Non si sa mai. Tocca a te adesso, Daniele. Allora, io spezzo subito una lancia in favore dell'hard rock, visto che sono le nostre radici. Nonostante tutto, quindi Black Sabbath, Heaven and Hell, che è il primo disco con Ronnie James Dio, per me è capolavoro assoluto, e AC/DC, Back in Black. Beh, quello è un capolavoro in ogni caso. Per la produzione perfetta, impeccabile. Disco che si ricompra sempre in continuazione. Si ricompra sempre. Poi andiamo sullo strano. Allora, Viva Cile degli Intillimani. Come mai Viva Cile degli Intillimani? Ma perché è un disco cui sono molto affezionato, e ce l'ho nelle orecchie fin da quando sono un bambino piccolo. E anzi, anche questo è una... ci saranno cover. È un po' di anni che tento di spingere per fare una cover degli Intillimani. E poi un disco bellissimo degli anni 60-70, non sono sicuro, che è la traduzione in milanese dei pezzi di Brassens fatta da Nanni Svampa, dei Goofy praticamente, sì, ex Goofy, sì, però c'è solo lui, il patrono, ed è un perfetto adattamento dei pezzi di Brassens nel clima della capitale industriale milanese, un arrangiamento molto più swing, molto più nervoso. E sono due dischi, se non di più, perché poi alla fine i pezzi sono usciti in vari scaglioni, e secondo me è un capolavoro assoluto. E me ne manca uno, Italia Mobile dei Virginiana Miller. Ah, Virginiana Miller? Sì. Gruppo toscano di Lucca? Gruppo toscano. Le ultime cose mi piacciono meno, ma quel disco per me rimane un capolavoro assoluto nei testi, nelle, anche si possono leggere i testi su tantissimi piani di lettura, un bellissimo disco. Io li ho intervistati 2-3 volte loro a telefono, insomma, chiaramente è un po' difficile dalla Toscana qua. È un gruppo molto interessante, molto valido, poco considerato secondo me. Cosa sì, dici? Anche se ultimamente probabilmente avranno un'impennata, anche perché lui ha scritto un libro, un romanzo su cui è stato fatto l'ultimo film di Virzì. Sì. Quindi... allora sì, qualcosa hanno avuto, sì. Però è un gruppo molto interessante. Tocca a te, Simone. Allora, dimmi. È complicato. No, assolutamente. Questo semplice. Scarso preavviso. Così, così viene distinto. Esattamente. La bellezza del programma è proprio così. Avvertire allora, all'ultimo secondo. No, poi è bello perché ci giochiamo tutti i fans folk metallari, sì, con queste nostre influenze. Queste. Allora, sicuramente le cose che mi hanno influenzato di più e che io amo e mi porterei dappertutto sono Danzig 2, Lucifuge di Danzig, che è un disco a casa mia si mette su da solo. Quindi quante volte l'hai sentito? Ho sentito troppe volte. E quindi uno è quello ed è sicuramente una mia grossa influenza. Anzi, c'era una cover da quel disco nel nostro primo fall, il nostro primo demo di 1000 anni fa. Quindi. Poi, la raccolta dei pezzi di Elvis Presley del 69. Ah, come torniamo molto indietro. Andiamo indietro, ma... Una delle tante raccolte. In realtà adoro Elvis Presley e soprattutto nell'ultimo periodo, nell'ultimo decennio, diciamo, fino al 77. E però il periodo, diciamo, l'annata del 69 è formidabile. C'era anche Suspicious Minds che noi facciamo a volte dal vivo, quindi anche lì c'è un pezzo che noi facciamo. Poi ci metto il live all'Olympiade di Jacques Brel, che è per me... Beh, molto, molto alto così. Jacques Brel è un personaggio molto alto dal punto di vista di qualità. Esatto, parlo andiamo di qualità. Molto su di livello. È molto di livello, molto di qualità. Vabbè, lo adoro, è uno dei miei cantanti preferiti in assoluto e quindi mi piace. Ti piace? Ti ha influenzato leggermente? Mi ha influenzato tantissimo. Non sparava così alto, però come non te. Sparava così alto, no. Però era molto tagliente, decisamente tagliente. Molto tagliente e anche come stile istrionico. È molto palco, istrionico, sì, esattamente. A me piace tantissimo. Poi ci mettiamo. Adesso sono a tre. Ancora due te ne manca. Ah, ecco, The Queen is Dead degli Smiths. Ah, senza dubbio. Qui siamo tutti d'accordo. Ne ha citati almeno due che volevamo mettere anche noi. Sì, vabbè. I Morris, e Marge stanno sempre. Sì, esatto. Perché loro sono personaggi, secondo me, che hanno cambiato. Sì, hanno fatto. Beh, Mara è un chitarrista. Sembra un chitarrista. No, sembra così semplice, non è vero. In realtà ha avuto delle idee straordinarie. Era geniale. E Morris è una voce straordinaria. Sì, Morris, ho avuto anche la fortuna di vederlo a Genova quest'estate. Non l'avevo mai visto ancora. È ancora eccezionale, è stato bravissimo. Marco, tu li hai visti gli Smith? Sì, Marco li ha visti chiaramente. Formazione storica, chiaramente. Quella formazione, è poco da fare. Quella là. E poi diciamo l'ultimo devono sgomitare in tanti per avere l'ultimo posto. Diciamo che in questo momento mi prende bene Tons of Sobs dei Free. È un disco che bellissimo. Mi porterei. Corri indietro, ma proprio indietro. Sì. Non ti piace At Last quello dal vivo, no? Sì, ma Tons of Sobs è qualcosa. Penso che Paul Rogers sia il suo meglio assoluto ed è un altro disco che mi ha influenzato. I Free è un grande gruppo, un gruppo che ha influenzato parecchia gente. Sì, sì. Decisamente. Anche se non è considerato un gruppo minore, tra virgolette, anche non è un gruppo minore. Assolutamente. È piaciuto a parecchia gente, anche recentemente qualche band che è venuta qua a suonare ha citato i Free. Sono molto contento per questo, che era un gruppo di tutto rispetto. Sì, Paul Rogers è sempre stato di tutto rispetto. Sì, sì. Al 100%. Ok, 23:16, abbiamo ancora tre quarti d'ora abbondanti per suonare, per parlare, per discutere, per cercare di capire la musica vostra. Adesso cosa facciamo? Facciamo un altro live, visto che ci siamo scaldati bene parlando della musica degli altri. Adesso facciamo sentire la musica vostra. Che cosa? Allora, adesso facciamo una canzone, un tradizionale irlandese che si chiama Spencer Hill. Ci attacchiamo qualcos'altro alla fine, ci attacchiamo un altro pezzo, quando sembra che stia per finire, in realtà ci attacchiamo un altro pezzo, ma quello magari lo spiego. E voi lo dovete riconoscere. Ah, interessante. Esatto. Ok. Last night as I lay dreaming, pleasant days gone by. Me mind been bent on rambling to Ireland, I did fly. I stepped on board a vision and I followed with the wind till I lightly came to anchor at the cross of Spencer Hill. Delighted by the novelty, enchanted with the scene, where in my early boyhood, where often I had been, I thought I heard a murmur, and I think I hear it still. It's the little stream of water that flows down Spencer Hill. It been the 23rd of June, the day before the fair, when Ireland's sons and daughters in crowds assembled there. The young, the old, the brave and the bold, they came for sport and kill. There were jovial conversations at the cross of Spencer Hill. My first and only love. She's as white as an lily and gentle as a dove. She threw her arms around me, saying, "Johnny, I love you still." She's back, the farmer's daughter and the pride of Spencer Hill. I dreamt I stooped and kissed her, as in the days of yore. She said, "Johnny, you're only joking," as many times before. The cock crew in the morning, it crew both loud and shrill. And I woke in California, many miles from Spain. It's the little stream of water that flows down Spencer Hill. Me name it means nothing, my fortune is less. My future is shrouded in a dark wilderness. Sunshine is far away, clouds linger on. Everything I possess, now they are gone, they are gone, they are gone. Oh, where can I go to and what can I do? Nothing can please me on the love sorrow of you. You just left when I begged you to stay. Stop crying since you went away. You went away. You went away. Yes, I will go sit down and mourn, crying and thinking it's all that I do. The memories I have remind me of you. Ok, ci siamo. Pezzo bellissimo. A proposito del flauto, qualcuno ha citato Jethro Tull. Più che Jethro Tull, posso dirti una cosa? A me ricorda Chris Wood dei Traffic, quando faceva le cose molto folk. Molto. Tra l'altro abbiamo appena finito qualche domenica fa di fare un video del brano che abbiamo fatto sentire prima, di Folk Metal Baby. E sarà un video molto bucolico, dall'idea molto... E John Ballico Must Die, che era molto bucolico nel senso positivo del termine. Chris Wood colorava quel flauto in modo magnifico e beh, ricordavi molto le tonalità di Chris Wood. E ti dirò di più, che alla fine del video, di cui non svelerò niente, indossavo un gilettino di pelle comprato da mia sorella al mercato per 3 euro, e quando Daniele ha guardato le riprese dove ero seduto in un prato con questo gilettino anni 60, quasi inguardabile, mi ha detto veramente era una cosa che a farlo apposta un falso degli anni 70 così non sarebbe mai venuto. Non ce l'avremmo mai fatta fare un falso così bello. Adesso parliamo di questo pezzo che avete attaccato. Siete voi che dovete indicare. Dammi qualche indizio, dai. Allora, il gruppo che negli anni 70 ha segnato, diciamo, la strada per tutti quei gruppi rock che sono venuti dopo, ed è stato già citato tra i nostri dischi. Tutti i gruppi metal, il primo gruppo rock metal. Rock metal, sì. I Black Sabbath. Esatto. Che pezzo di Black Sabbath? Solitude. Ah, Solitude, hai ragione. Che era ragione. Una ballata piuttosto è vero. Deprimente. Deprimente. Come ne scrivevano loro. Esatto. Era così. Perché tutti i gruppi aveva questo andamento. È vero, hai ragione. Te la ricordi, Marco? Te la ricordi? No, ha fatto finto. Si vede che è vecchia, vecchia, sì. Vai al microfono. No, non puoi andare al microfono. Sì. Sì, non è sulle mie corde, però i Black Sabbath mi piacevano sia agli inizi, sì, mi piacevano. Perché sì, avevano... È una cosa vecchia questa. Ma tutti quanti i gruppi metal, puoi correggermi se vuoi, hanno avuto questa caratteristica, che nei pezzi iniziali avevano sempre queste reminiscenze folk popolari, in senso, molti gruppi, tra virgolette, in senso positivo del termine. E avevano questi piccoli gemmi, questi piccoli capolavori che riuscivano... Dopo chiaramente lo sviluppo degli altri pezzi era ben... su quelle solite coordinate, però riuscivano come si dice, a colorare in un momento. Erano anche i tempi di un revival folk molto forte, quindi subivano anche l'influenza di un'attitudine folk nel senso più hippie del termine, che all'epoca era molto forte, specialmente in Inghilterra. Certo, abbiamo citato Incredible Street Banger, il gruppo più hippie del folk. Poi c'era i Fairport Convention, Pentangle, Still I Spend, tantissimi gruppi. Uno dei dischi che avrei citato era Ark the Village Wait. Non bellissimo. Puoi però adesso, ormai basta Dario, ne hai detto bellissimo, 5, bellissimo. Piacerebbe di AM6, no? Bellissimo, stile spam. Anche quello lì, secondo me, ha segnato notevolmente. Poi sono stati anche prodotti un po' di anni dopo da David Bowie, il successo l'hanno avuto con loro. Però non era mica brutto il disco prodotto da Bowie, era un bel disco, Pass of Rocks, era molto bello. A proposito, se vi interessa, i dischi stile spam costano molto adesso in Inghilterra, non si sa perché, sono ristampati a prezzi folli. Ah sì? Sono provato a comprarli su internet. Sono ristampati a prezzi folli. Forse hanno capito che comunque sono in pochissimi a comprarli, e quindi tanto vale venderlo come un prodotto di lusso. Ma molto di ricerca, è stato ristampato proprio benissimo, però costano parecchi soldi, parecchie sterline. Peccato, perché è un gruppo... Io amavo moltissimo Still I Spend, un gruppo straordinario, secondo me. Non li conosce nessuno, anche quando li citiamo. Pentangle anche Pentangle. Sulla stessa onda. Sì. E tra l'altro abbiamo citato Johnny Marr prima, era un allievo del chitarrista dei Pentangle, aiutatemi con John Rainbow. No, quell'altro. No, John Rainbow. Adesso un'amnesia totale. Quando sentiamo nei pezzi degli Smiths quelle quinte, quelle quarte, quegli accordi particolari vengono allievo. Proprio dal folk blues. Ben Yash Bertie Ash. Era un allievo di Bertie Ash. Sì, non so se era proprio un allievo, comunque era un grande fan suo. E si sente che comunque ci sono dentro tanti tipi di accordi, quello che, per cui tu dicevi prima, che in realtà è un chitarrista ricercato. Certo. Proprio perché utilizza delle idee particolari, degli accordi particolari. Bene, una cosa molto positiva. E il folk ha insegnato molto, secondo me. E, parlando di folk, e poi finiamo il discorso, io ricordo sempre Sandy Denny, che è una vocalista straordinaria, di Farpo Convention, proprio dato quella era proprio hippie, decisamente sì. Hippie. Meravigliosa come vocalist straordinaria. Purtroppo è finita come è finita, però i Farpo Convention, grazie a lei, sono diventati un gruppo veramente straordinario, credo. Assolutamente. Sì. Io li ho visti sotto casa, praticamente. quando una delle tante formazioni che... Sì, una formazione anni 70, però non c'era la loro cantante, c'era appunto la cantante di Pentangle. Jackie McShee. Molto brava anche lei. E era una bellissima attitudine, tutti in braghe corte, sembravano tutti esploratori alla Livingstone. Sì. Con un'attitudine molto tranquilla, rilassata, veramente bravi. Devo dire che c'era anche Jackie McShee, perché è sposata col batterista dei Fairport Convention, così facciamo un po' di gossip. Mi pare giusto musicale, che sia così. Ok, 23 e 20, 26, sì, quasi 27, bello, andiamo avanti, abbiamo ancora 20 minuti abbondanti. Adesso sentiamo un altro pezzo da disco e poi faremo un rush finale di tutti i pezzi live. Possiamo sentire adesso da disco? No, da disco? Cosa c'è in scaletta? Abbiamo finito tutto? No, ce n'era... C'era Darren Back Again. Quanti pezzi ci sono da disco, Marco, ancora? Ancora due, mi dice Marco. Darren Back Again e One. Ne sentiamo allora il prossimo che abbiamo scelto, ok? Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Your smell, Rose, I must confess I fell in love with you again. Rose that runs under my wheels. Rose, every springtime is a thrill, but winter kills. Forget your tale. Shine to be brighter than into the dark. as she says, this is where I stay. In the end I love to be there and there. Rock wave. Rock wave. Rock wave. Rock wave. Ok, Dario Caradente, Daniele Zoncheddu e Simone Casula, i Kalevala, giusto? Giusto. L'accento è, sbaglio sempre gli accenti, però stavolta va andata bene. È praticamente la formazione che prevede sei elementi, stasera ci sono in tre, ma molto rappresentativi. Decisamente rappresentativi, anche belli, poi, anche belli del gruppo. Adesso Daniele mi ci poteste vedere. Esatto. Adesso Daniele mi spiega la solo di chitarra elettrica che ha fatto in questo pezzo. È un assolo. L'idea come l'hai avuta di fare sta solo? Te l'hanno concesso gli altri oppure è stata te che hai detto no, solito, voglio fare da solo? No, allora, nei dischi di solito sono abbastanza pochi i miei assoli perché non mi piace infilare delle cose di cui non sono completamente convinto, che nell'economia del pezzo spezzano troppo. Qui sì, me l'avete anche chiesto un po' voi, in effetti, di fare un solo. No, ma poi io non so se ti ricordi una sera che ero ubriaco che ti ho detto che cosa pensavo di questo solo. Ho coniato un aggettivo, ho detto che è un solo prostrante. Ma tu eri ubriaco. Esatto, io ero ubriaco. Okay, questo spiega molte cose. Prostrante. Non stavi benissimo. Non stavi tanto bene. No, il solo è un tema melodico che cerca di rimanere sospeso, con un'atmosfera sospesa. Cerco di infilarci il meno possibile proprio perché diciamo che il mio ideale di chitarrista che sta in un gruppo è Brian May, cioè mi piace molto il modo in cui lui sta nel gruppo, è molto presente però non tanto con dei soli quanto con delle parti melodiche importanti e con l'imitazione anche di altri strumenti, ricerche timbriche, quello è il modo in cui mi piace stare nel gruppo perché voglio essere convinto tutte le volte di quello che sto facendo, non addormentarmi mentre faccio un assolo di due minuti. Non stai Steve Vai praticamente. No, bene. No, nel senso di bravura, senso. Del modo di fare, che lui si addormenta, nel senso negativo o positivo, cioè si sente bravissimo. Questo si sente dire. Bravissimo, è la sua parte negativa, però spezzo una lancia, nel senso Dimmi, che perché anche ha avuto delle critiche anche per quello, perché si sente bravissimo. Sì, però anche un grande compositore, secondo me. Lui, secondo me, Steve Vai ha composto qualche pezzo proprio geniale dal punto di vista compositivo. Ha cominciato a comporre a 13 anni a scuola. Dopo Zappa ha fatto un primo disco che per me è strepitoso perché è molto zappiano, che conoscono in pochi, che si chiama Flexible. Secondo me è bellissimo. Tutto il resto mi interessa poco, ma secondo me quel disco lì è proprio vale la bellissimo pena. È zappiano, lui è zappiano fondamentalmente, molto zappiano. Per quello è difficile, no, difficile. Per quello ha avuto tante critiche positive e negative, perché Zappa, come si ma sa, sai cosa? È diventato dimmi. Anche un po' un'icona del chitarrista è vero. Ultra tecnico, è certo. Quindi viene criticato anche a priori sì. Perché è un'icona di quel tipo di chitarrista. Sì, che sono d'accordo con te, molto. È vero. Benissimo, quindi abbiamo spiegato la solo di Daniele, e questo è molto importante, è significativo. Questo era un pezzo in cui c'era la fusione perfetta tra il folk tra virgolette e il rock, ma quello duro, quello potente, e la melodia. Sono tre componenti fondamentali, e chiaramente la tua voce, il tuo vocalist, sono elementi fondamentali, e la voce si erge, va sopra agli strumenti. Cosa dici? Ma sì. Possiamo accettare come definizione. Secondo me l'hai descritta discretamente. Dai. Bene, bene. Discretamente. Perfettamente. Dai. È importante un vocalist in un gruppo. No, c'è poi secondo noi, vabbè, poi è la canzone, lo citiamo, che dà il titolo al disco, così lo Quindi diciamo. La title track. Back Again, è la title track. E pensavamo che dovesse avere un respiro giusto rispetto anche a molte canzoni che, come hai detto anche prima, sono serrate dure, immediate, arrivano subito. Questa canzone forse ha un respiro un po' più ampio, è dura, è pesante, però ha anche delle melodie forti. Ma la melodia c'è sempre nella vostra musica, ci sfora, ci deve essere. Sì, assolutamente. Al di là che sia un po' contrastata, volutamente contrastata, ma la melodia è fondamentale. È un po' un pezzo anche al Mago di Oz. Cioè una componente filmica anche volutamente ingenua, volutamente il movie ingenua. Esiste sempre, cioè, lo mettete sempre dentro nei vostri pezzi, aleggia, possiamo dire così. Sì, aleggia, sì, è un po' è anche il tema dell'album, parla del tema dell'album che è l'immaginazione, cioè andare e tornare nell'immaginazione, cioè fare un viaggio, scappare dalla realtà, ma poi dover tornare nella realtà. Forse, cioè, ci chiediamo, il protagonista ideale di questo viaggio è il nerd, nel senso qualcuno che scappa dalla realtà per rifugiarsi nei suoi mondi. E però poi il problema è ritornare, come si ritorna, portando con sé che cosa? Anche cose molto importanti, cioè anche oggetti potenti che poi nella realtà servono. Penso sempre che adesso il nerd, mentre prima era un isolato all'interno dei gruppi, fa invece un po' parte proprio della nostra società, cioè i nerd sono quelli che ci governano, ci comandano, che ne so, Bill Gates o piuttosto che Zuckerberg, quello di Facebook, cioè sono diventate, siccome nel nostro mondo conta molto più il cervello adesso che tutto il resto, sono diventati anche delle potenze, cioè, e quindi mi chiedo cosa ci si fa con questa immaginazione, cioè che cosa poi nella realtà come si mette in pratica e che cosa ci si fa. Quindi è un po' questo il tema dell'album, e Der McCagan è una citazione dello Hobbit, che è un libro di Tolkien, e il sottotitolo dell'Hobbit è Der McCagan, che vuol dire andata e ritorno. Quindi letteratura e cinema che si accompagnano, si sposano. Sì. Nel disco precedente c'è stata proprio una citazione vera e propria da un film. Qua è stata solo di sfuggita, non è stata proprio... Sì, no, era più un'atmosfera. Un'atmosfera, esattamente. Sì, un'atmosfera. Benissimo, allora abbiamo un altro, sì, abbiamo tempo per un altro live subito immediato. Che cosa? Vai Simone, dici. Vai tu. Simone, vai. Facciamo Scream Shandler. Facciamo Scream Shandler. Okay. È un nostro vecchissimo pezzo. Non presente nel nuovo o nel precedente, era di qualche tempo fa. È precedente ancora, è presente in Words and In, che era uno dei nostri EP, diciamo, EP. Il primo EP nostro. 2000? E qui 2003-2004, so, sì, quindi un po' di anni fa, dai, quasi 10 anni fa. Mille anni fa, ok. Singing the old song, man. Let's have a drink to the old bodies that I had a name. Seas washed apart, just like the tides in the shores of my heart. We've sailed the coffin along to the end, singing the old song, man. The shepherd ran right, he'll never lead the sheep out of the night. I told the shepherd ran dry for the saltness of sea. The water seems to reflect the sky, but drunken with the supernatural light. Someone can raise my the shade of canvas fire. has Poppy gone? It's been too long that we're alone. When a baby was inside the sky, soon it's on his soul. His flesh is not stone. If you could hear sounds under this deep flat blow, you'd know nothing good is waiting for us all. Shepherd run dry, he'll never lead the sheep out of the night. Heart of the shepherd run dry, for the salt mass of sea. The water look missing to reflect the sky, but don't go with the supernatural white. Someone can reach above the shade of Ganon's fire. Here, Lord, my father, I lie. I have to write to be yours more than mine. But at the end, what's a man to live all his God's life? The water look missing to reflect the sky, but don't come with the supernatural white. Someone can raise by the shade of Gander's fire. Someone can reach but the shade of Gehenna's fire. Bellissimo anche questo pezzo. Questo era tradizionale, si sentiva che era un pezzo fatto un po' di anni fa, quindi le prospettive erano leggermente diverse, sì, rispetto ad adesso, vero? Sì. C'era più ricerca in quel ramo là. Adesso le cose sono cambiate, c'è più ricerca a 360 gradi, più nel settore del rock, nel senso più movimento anche dal punto di vista armonico. Sono 23:47, abbiamo circa 10 minuti, allora li usufruiamo così. Innanzitutto diciamo il produttore, la casa discografica e tutti i vostri riferimenti se uno vuole acquistare anche fisicamente il disco, i dischi che avete inciso. Allora, produttore si chiama Dorian Bones, lo pseudonimo, l'etichetta si chiama Moonlight Records, sta a Parma. E siamo entrati in contatto con loro velocemente, lo spiego, perché noi avevamo già fatto il disco, registrato il disco, non era uscito per problemi con un'etichetta inglese e quindi all'ultimo momento abbiamo fatto Musicanti di Brema, l'abbiamo fatto uscire con loro e poi abbiamo deciso di fare anche di questo proseguire. Disco insieme con loro. Certamente. E per ordinare il CD si può chiedere alla Moonlight Records a Parma, che è un suo sito, quindi se voi cercate su Google Moonlight Records lo trovate subito. Siamo in costruzione con il sito nuovo in questi giorni, quindi probabilmente aggiorneremo e sarà possibile anche comprare, acquistare direttamente dal sito. Con PayPal, se no ci mandate a noi una mail a ship@kalevalhms.com. Benissimo. Ship come nave, non come pecora, come gregge. Okay, ci trovate anche su Facebook, certo. Su Twitter, insomma, basta trovare Kalevala, Kalevala HMS, insomma. Sentiamo allora l'ultimo pezzo che abbiamo in scaletta da disco, che mi sembra che è la title track del disco precedente, I Musicanti di Brema, che è la traccia numero 12, l'ultimo pezzo dell'album precedente, è un pezzo molto... quelli, sì, mi pare sì, abbiamo ancora tempo, sì. Era la bonus track della scaletta. Perché ne avevamo messe altre... Cosa vuoi mettere? No, va bene quella però, se mettiamo quella va benissimo. Un pezzo molto bello, è significativo anche per noi, di solito è anche la conclusione dei nostri concerti, così... Si chiude il cerchio. Chiude il cerchio, esatto. Lo sentiamo e poi concludiamo live, chiaramente, come è la tradizione di Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave Live. Non sempre con la falce solo erba taglie. My Wave. Rock Wave Live. Eh sì, Marco, abbiamo finito, sono le 23.55, adesso facciamo le cose istituzionali, il sito, i vostri appuntamenti, il nome del disco e l'etichetta, visto che ci siamo, dai, tutto pronto. Beh, intanto ringraziamo la radio però, perché grazie a voi, è che siete venuti. Una trasmissione molto molto divertente, per noi almeno, speriamo anche per chi l'ascolta. Sicuramente. Noi ci siamo divertiti molto, allora... In fretta ripetiamo le date che abbiamo detto prima, quindi venerdì questo qua, 5 ottobre a Sermide, provincia di Mantova, dal 17 al 22 siamo in Scozia per chi vuol fare turismo musicale, su. Il 26 ottobre Castiglione delle Stiviere, provincia di Mantova, 1 novembre Sarzano, provincia di Reggio Emilia, al Matildica, 3 novembre a Negrar, stavolta non sbaglio, al Sin City di Negrar. Senza accento, hai detto giusto. A Verona, il 10 novembre al Boulevard a Misano Adriatico con i Diabula Rasa che presenteranno il loro nuovo disco. Benissimo. Tutte queste informazioni comunque si trovano sul nostro sito. Un aggiornamento sul sito calevalahms.com. Su Facebook basta cercare Calevala, si trova la nostra band. Quindi su Facebook, su Twitter si trovano in mille modi. Quindi insomma. E vengono continuamente aggiornati, per cui le date ci sono. Ricordiamo che il nostro ultimo disco è There and Back Again, uscito per la Moonlight Records di Parma. Ci teniamo a citare Bianchi, che è un settimo componente in realtà, è il nostro grafico, ha curato le splendide grafiche dei dischi. Nostri dischi, soprattutto il secondo che parla dei Figues e Briques dei Jethro Tull, comunque uno scritto. Esatto, c'è un po' c'è la citazione, diciamo. Anzi, spesso quando veniamo recensiti c'è spesso una citazione anche della grafica, perché molto bella, comunque fa sempre degli ottimi lavori ed è anche tra i fondatori della band, per cui ci piace citare. Nome importante. È un nome importante. Benissimo, con cosa concludiamo? Concludiamo con un pezzo che abbiamo già sentito nella versione del disco, che è Folk Metal Baby. Proviamo a farla in tre in acustico. Ricordiamo anche la cosa che diceva prima Dario, cioè che fra poco... sarà possibile vedere anche il video di questa canzone. Sarà penso un delirio totale, quindi tra un po' tenetevi in contatto, poi uscirà su YouTube il nostro video. Certo, grazie a Marco Borgato che ha curato la regia. Benissimo, domani sera dalle ore 21 Blue Time Live con Agostino. Grazie ai Calevala e ci sentiamo questo live. Buonanotte a tutti e buon ascolto ancora. There was a young lady, she was sad, she was kind. A library dress and a glass full of wine. We met at the abbey, we were hiding from cold. But I felt back the shivers when she said no. So I gave her one kiss and tipped my own head, and I said to her eyes, you ain't seen nothing yet. She looked at my mug and asked, what do you mean? Well, the answer I gave, it's folk metal, baby. From Brogge to Bremen, from Pilsen to Cork, behold the Grim Reaper just stored in a big fork. Glasgow to Dublin, from Porto to Brest, you hear the drunk march of our boots without rest. When the eyelid is plain and the stout is a cloud, and thunders are roaring cause we're praying it's allowed to space around tankard and rank till the end. It's not time for the fight, it's folk metal, my friend. Sirens won't harm us today, but old drums and horns we are blown it away. Let's throw all you bastards a stern wind's a lie. We rock and we roll on a sailor on fire. So go home, Mr. DJ, you're welcome no more. From now on, I swear it, well, the masters on board. In the depths of the ocean, you'll be scratching the shells. Have a nice dive, it's folk metal in hell. We'll be right back. no pose, no flag waving, no captains at all. We don't need your rules to be proud and stand tall. No island of pleasure, no ready-made fun. We don't need your party to be totally drunk. Well, no matter how bright is the cross on your neck, we'll choose the right sentence between cake or death. So throw away your chain balls and join the green ship. It's freedom but wicked folk metal, baby!